Io sono paura d'uscio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on. Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future. E buonasera a tutte e a tutti, siamo qui in questa nuova puntata di Tabula Rasa. Questa sera presenteremo tre saggi e adesso andrò a dirvi i titoli della puntata. E parleremo di un libro, La società senza dolore, perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite, un libro di Byung Chul Han, spero di averlo pronunciato giusto, ma sicuramente non sarà così. E dopodiché andremo a parlare di capitalismo woke, Capitalismo woke, come la moralità aziendale minaccia la democrazia, edito da Fazzi Editori di Carl Roth. E invece l'ultimo testo che andremo a discutere questa sera è di Lee Budget, Economia queer, perché i diritti civili sono un vantaggio per tutti, edito da Il Saggiatore. Ecco, allora, quindi già prima di cominciare abbiamo già, così, ho già buttato in mezzo un'altra persona, una nuova tabula che quest'anno sarà con noi, ma ce n'è anche un'altra a cui do quindi il benvenuto a tutte e due. Benvenuto e benvenuta a tutte e due. Ciao. Ciao a tutte e tutti. Allora, prima di cominciare con il nuovo libro, ricordiamo che la radio ha sempre bisogno di finanziamento, perché è una radio che si autofinanzia, quindi insomma, qualora voi volesse, anzi, ve lo è caldamente consigliato di contribuire e di donare alla radio, potete farlo andando sul sito di Radio Onda Rossa, dove ci sono tutte quante le istruzioni, o anche potete passare qui a San Lorenzo in via dei Volsci. Prima di partire con il libro, e partiremo con Economia Queer, un po' di musica. Bentornati.

Io la ringraziare Massimo, nostro corrispondente, nostro parlamento di Radio Onda Rossa, spesso e volentieri dagli Stati Uniti, ci risentiremo tanto prossimamente attraverso la tua voce. Non so se volevi aggiungere qualcosa in chiusura, ci sarebbe tantissimi argomenti che si vanno a correlare a questo. Assolutamente. La guerra culturale che c'è negli Stati Uniti da alcuni anni a questa parte, che è in atto, che spesso e volentieri viene agitata, no? È ridotta semplicemente all'insulto, questo dei walk è diventato un insulto di destra per dire una persona di sinistra fondamentalmente ipocrita. Certo, no, questo è anche sì. Questo è anche un altro aspetto interessante del libro, insomma, questa ricostruzione di come il woke va da termine di sinistra con una certa identità politica e diventa l'insulto della destra conservatrice. È una ricostruzione molto... molto ben fatta e descrive perfettamente poi il clima che si respira qui, insomma, soprattutto post Trump. Però in generale, come dicevi tu, insomma, il libro è una lettura piacevole, soprattutto, ripeto, per persone che sono interessate a capire un po' meglio certe narrazioni che avvengono soprattutto nel mondo anglosassone. Tutti su Tabula Rasa, e per concludere la serata andiamo a presentare l'ultimo libro, che è La società senza dolore di Bjorn Kulhan. E per introdurre questo saggio pongo una domanda particolare, ma anche molto banale, sia a voi che ascoltate che ai miei interlocutori, che è: come state? È una bella domanda, verrebbe da dire bene, come si dice sempre. No? Dai, bene, una classica risposta che daremmo, esatto, tutti i giorni. Ma l'autore di questo saggio non sarebbe d'accordo con noi. È vero, perché infatti il filosofo Bjorn Kulhan è sudcoreano, nato a Seul nel 1959, ha studiato filosofia in Germania, a Berlino, dove ha conseguito il suo PhD, e si è specializzato su Heidegger. Dopo la sua specializzazione, le teorie e gli scritti che ha portato avanti si concentrano su una critica neoliberista della società capitalista del blocco occidentale, e in particolare individua i problemi principali della società nel quale noi viviamo nella eccessiva presenza di positività, per cui trova nella proliferazione infinita della positività i suoi principali problemi. E da qui il tema principale del testo che stasera andiamo a discutere tutti insieme, che si concentra appunto sull'algofobia, questa paura incosciente e inconsapevole di ognuno di noi di rigettare il dolore, una paura generalizzata che porta ad un'anestesia permanente, secondo l'autore. Ecco, vedi, già abbiamo lanciato il primo tema. In questo senso Io già premetto a tutte e a tutti che comunque ci sarà un dibattito, perché io su alcune cose poi noi ne abbiamo parlato fuori, no? Questo chiaramente, cioè, si può dire, mica niente di male, quindi ne abbiamo parlato fuori. Io, ci sono degli aspetti del libro che condivido di più, altri che condivido di meno, e ecco, uno di questo, vediamo, cioè per me, ecco, il rigetto del dolore, più che rigetto, per come la vedo io, quindi un aspetto che un pochino mi ha così lasciato qualche dubbio, a me la parola che è venuta in mente rispetto al dolore e al sentimento del dolore nella società di oggi è anche più, non dico inconsapevolezza o no, più che inconsapevolezza direi difficoltà nel esternarlo, ecco, nell'esprimerlo. Però credo che comunque anche la società di oggi e le persone della società di oggi riescano a identificarlo, ecco, o comunque a provarlo. Poi che ci sia difficoltà nell'esternarlo è un, secondo me, è un tema anche questo, però non so. In realtà Ann nel suo libro non dice che il dolore non esista o che non venga riconosciuto in realtà, ma dice che il dolore comunque trova altre forme per venire a galla, e che nelle forme che trova, diciamo, non trova il riconoscimento, tant'è che parla della mano guaritrice, che è una cosa molto banale, però se pensiamo per esempio a quando da bambini o bambine avevamo la febbre, c'era sempre una persona che ci metteva la mano sulla fronte. Certo. E invece questo tipo di società neoliberista, capitalista, non avviene più. E non avviene più per dei motivi che in realtà cerca di spiegare nei primi capitoli del libro. In particolare lui riconduce tutta questa assenza del dolore percepito come riconoscimento sociale e condivisione nel dispositivo della società neoliberista della coazione a produrre o coazione alla felicità, in questo caso, per cui una società capitalista come la nostra, che impone una continua tensione ad andare oltre i propri limiti, oltre le proprie sofferenze, per raggiungere l'estrema felicità che si realizza nell'ottenimento di beni materiali, nel miglioramento delle proprie condizioni di vita, riconducibili appunto al possesso ancor di più di beni materiali, piuttosto che ha una visione introspettiva di ciò che significa il dolore. Anzi, l'introspezione che individua Anna nella percezione del dolore la vede nella sua incapacità del singolo individuo di potersi riconoscere in una società che fallisce. E invece di una società che fallisce, dove ci sono pezzi manchevoli, è il singolo a fallire, e quindi tutto viene riportato sull'individuo. Quindi forse invece quello che stavamo dicendo prima è proprio la massima esponenziale estrazione dell'individuo che soffre da solo, ma atomizzato dal contesto sociale non è più in grado di percepire il dolore, per cui è tutta colpa di se stesso. No, ma su questo, ecco, ad esempio su questo aspetto mi sento di condividere, perché in qualche modo nel libro c'è una sorta di, per come l'ho visto io, un libro, tra l'altro è un libricino, adesso non ricordo le pagine, però parliamo di un centinaio di pagine all'incirca, ecco. E la prima parte del libro, a mio avviso, dove il dolore viene più visto come, diciamo, cioè viene più analizzato da un punto di vista collettivo, quindi della società, lui nel libro parla di società palliativa, no? La società di oggi. E quell'aspetto lì mi ci sono trovato, cioè nel senso l'ho condiviso molto quell'aspetto, il fatto di, a un certo punto lui dice che il capitalismo, il neoliberismo fanno sì che se una persona soffre, e quindi mi verrebbe da dire, ok, quindi una persona soffre, ok, tornando a prima, se quando una persona soffre tende a non mettere in discussione la società che lo fa soffrire, riallacciandomi a quello che dicevi tu prima, ma ne fa una questione propria, cioè sono io che magari sono inadeguato, sono io che non riesco a stare al passo, quindi diventa esatto, una colpa individuale. Questo è, cioè, su questo sono d'accordo, questo aspetto mi convince. E l'aspetto che dicevo prima, che mi convinceva di meno, era più riferito al fatto che, appunto, a mio avviso, nella società di oggi c'è talmente, questo è un pensiero mio, cioè, che c'è talmente tanto dolore generale, diffuso, che molta gente c'è talmente nata, stata e abituata in quel dolore, che forse non riesce a, cioè, non ha mai visto altro. Quindi è più in questo senso, prima dicevo, inconsapevolezza di dolore, inconsapevolezza nel senso che spesso e volentieri si tende a questo dolore permanente, per cui diventa difficile anche trovarlo o comunque vederne la forma, ecco, tutto qua. Poi, da un punto di vista della società, della collettività, sono questo aspetto lo condivido. Sì, molto. Poi nel senso, nel saggio viene fatta anche, diciamo, non una provocazione, ma è stato scritto in un periodo particolare, cioè, insomma, quello del Covid e della pandemia, tant'è che l'autore ci dice che, appunto, quei momenti lì sono stati uno strappo in questa società occidentale, perché comunque il nostro benessere deriva sempre dal fatto che qualcuno non possa godere dello stesso benessere che godiamo noi, certo, in quanto occidentali. E la provocazione che fa è quella, appunto, del Covid, dicendo che proprio il Covid ha riportato la morte come argomento. E io penso che tutti e tutte ci ricordiamo, appunto, dei bollettini in cui veniva fatto il conteggio dei morti. E quindi questa cosa ci ha reso, diciamo, non ci ha reso, ma è stata proprio uno strappo nella narrativa che noi abbiamo in questo mondo, che comunque, almeno in Occidente, spinge sempre a essere felici, ma soprattutto ad essere delle persone completamente sane. Quindi l'idea anche del dolore fisico, del dolore non solo, appunto, dello spirito, è qualcosa che noi rigettiamo completamente, ricercando sempre delle, appunto, dei modi per in un certo senso allungarci la vita. E un altro aspetto che secondo me è interessante, riconducandoci appunto al periodo del Covid, che tutte e tutti abbiamo vissuto qualche anno fa, è come lo collega alla percezione della morte e del dolore nell'arte. Anne cerca di fare un collegamento che porta a una, appunto, potremmo definire smaterializzazione, a una dissoluzione di quella che è la percezione del dolore di un singolo individuo, di un singolo essere umano, facendo l'esempio di come pensiamo alle grandi produzioni cinematografiche americane, come per esempio penso ai film dei supereroi o qualsiasi genere degli sparatutto che tanto va nel mondo occidentale, si possano alternare scene di ironia pura a scene di dolore e tragedia inquantificabile, con esplosioni, morti, corpi spezzati, e dove lo spettatore, quindi l'oggetto della ricerca di Anne, il cittadino del blocco occidentale, rimane impassibile e completamente inerte, intrattenendosi, appunto, di fronte a questa produzione artistica. Allo stesso modo rimaneva inerte, quasi scorporando il concetto di morte dal dato che noi percepivamo nel bollettino del quotidiano del conteggio dei ricoverati e dei morti durante il Covid, restavamo quasi impassibili. Ovviamente ognuno di noi avrà avuto giustamente avrà avuto le sue reazioni, ma ciò che interessava l'autore era, appunto, l'elemento passivo nel quale veniva recepito la morte, e di come la morte cambiava aspetto, perché se riprendiamo anche grandi saggi che ci sono stati sulla storia della morte, come per esempio quello di Philippe Ariès, che ci ricostruisce tutto il rapporto con la morte a partire dal mondo spartano della Grecia antica fino ad arrivare ai giorni nostri, si vede come cambia completamente la nostra relazione con una persona che finisce il suo percorso in una vita, prima ovviamente molto più accettato, perché essendo sempre quotidiana la morte, anche pensiamo semplicemente alla morte infantile, era all'ordine del giorno. Oggi viene vista sì come un dolore, una mancanza e una tragedia infinita, se solitamente così appunto noi la riusciamo a ricostruire nella nostra testa, però appunto viene ricostruita nella nostra testa. Nonostante la presenza di funerali, di riti che sono collettivi, l'elemento del dolore non viene più condiviso, e questo credo che sia l'elemento principale di Anna, che poi possiamo essere d'accordo o meno, ogni tanto magari sul tema del Covid appunto si perde, perché fa dei lanci particolari. Vola un po'. No, però sono d'accordo, cioè nel senso, questa analisi me la ricordo all'interno del libro, e ecco, quando l'ho letta, e adesso un pochino riascoltando anche te, il mio pensiero era: però come siamo arrivati a qui? Cioè nel senso, siamo arrivati a questo per il modo di comunicare, per come comunichiamo, per una diciamo per una situazione in cui cioè siamo sempre informati, abbiamo questo carico di notizie e così, anche perché lui poi nel libro a un certo punto si riallaccia a il capitalismo della sorveglianza, sì, appunto anche quello, insomma, un bel libro che mi sento di consigliare. E ecco, in questo senso mi verrebbe da chiedere quanto anche il modo di comunicare, come si comunica appunto sempre il dolore in questo caso, incida in questa evoluzione, non lo so, in questa situazione in cui si trova la società di oggi, ecco. Secondo me Anna a questa domanda risponde dicendo che la società capitalista ci spinge ad essere degli organismi unicamente produttivi, quindi il dolore, che è qualcosa che comunque leva tempo, che probabilmente è la merce più preziosa e che vendiamo più facilmente in questo mondo, è qualcosa che non può rientrare in quello che è il sistema e la maniera in cui riesce a sopravvivere. E poi l'altra cosa che diciamo è importante in questo saggio, secondo me, è proprio l'analisi del fatto che questo mancato riconoscimento del dolore spinge le persone a diciamo non trovare neanche quei sentimenti che sono i sentimenti che portano, lui la chiama, alla rivoluzione, cioè nel senso a cambiare il mondo, perché ho dolore verso questo mondo e ne voglio un altro migliore e diverso. E questo non riconoscimento, e quindi anche viversi questo dolore, cioè della mancata appunto rivoluzione di questo mondo che comunque tende a schiacciarci. E secondo me è lì il fulcro del libro, cioè è proprio nel dirci che probabilmente questo dolore condiviso è l'unico mezzo per il quale possiamo avere una felicità sia come individui che come collettività. E guarda, riallacciandomi anche a quello che dicevi prima tu sul come l'autore del libro, a mio avviso anche correttamente, ci riporti al fatto che la società di oggi appunto è il suo unico scopo principale, è quello di produrre, quindi poi il dolore e anche pensare al dolore in generale, pensare alle proprie emozioni, ecco, in questo senso mi sento di dire, poi questo discorso può essere benissimo allargato poi chiaramente a tutte le emozioni, a tutti i sentimenti, lui in questo caso parla di dolore, non ci sia neanche proprio il tempo di pensare a questo. E mentre lo leggevo e mentre dicevi questa cosa, che trovo corretta e interessante, mi era venuto in mente una serie che avevo visto, che c'entra e non c'entra in qualche modo con il libro, che è, se ho visto anche una serie, è incredibile. Infatti adesso in italiano è Scissione, sarebbe Severance, credo, una serie che io non ho visto. Allora prende questa azienda, dove i lavoratori di questa azienda, nel momento in cui entrano all'interno dell'ascensore aziendale, dimenticano la loro vita al di fuori del lavoro. Quindi c'è scissione, appunto, c'è una scissione di vite. E in qualche modo, cioè, è quello che effettivamente, a mio avviso, poi si ricollega anche al dolore. Non c'è spazio al lavoro, nel luogo di lavoro, per le emozioni. Nella società di oggi, appunto, se devi produrre, se soffri o se sei innamorato, cambiano le tue prestazioni, e questo non è tollerabile. Quindi questa serie, ma anche questo libro, a mio avviso, parla anche di questo. E infatti hai preso, secondo me, un punto centrale, secondo me, perché un elemento che accomuna, appunto, il provare emozioni è, per Han, per Junger, per tutti i filosofi a cui, appunto, fa riferimento l'autore, è che dolore, morte, amore, tutte le più forti espressioni dell'umanità, del nostro sentirci umani, si coappartengono, cioè esistono nello stesso momento e esistono perché esiste l'altra. E quindi qua si manifesta una delle grandissime contraddizioni della nostra società, perché se io non posso impegnarmi in una relazione amorosa, ho paura, appunto, l'algofobia, ho paura del dolore, ma ho anche paura dell'amore, perché potrebbe finire in qualche modo creare un elemento di mancanza, un elemento di sofferenza. Questo ci disumanizza, ci rende delle macchine che sono pronte esclusivamente a produrre. Macchine che sono pronte esclusivamente a produrre perché se io impiego la mia forza lavoro, il tempo in cui spendo la mia forza lavoro a soffrire, a riflettere su me stesso, a non essere in grado di fare tutto ciò che farei quotidianamente. Quante volte ci siamo alzati dal letto non dicendo oggi piove, non riesco ad andare avanti, però con vere mancanze nella nostra vita che ci impedivano di ragionare, impedivano di pensare, impedivano di agire, e pur percependo questo dolore abbiamo dovuto abbandonarlo e continuare ad andare avanti nella quotidianità. La quotidianità di una colazione a produrre che ci porta a un circolo continuo, meccanico, in cui siamo svuotati del nostro essere umano e del nostro provare sentimenti. Secondo me su questo Han utilizza una parola molto bella, che è passione, che in qualche modo riesce a racchiudere tutti i sentimenti, dal dolore alla felicità, all'amore, eccetera. E ci dice proprio che, a mio avviso, ci dice proprio che con la mancanza del dolore, e quindi di un processo trasformativo che in qualche modo necessariamente porta del dolore, perché ci porta a rinunciare magari a delle persone o a dei pezzi di noi, della nostra esistenza, eccetera. Rinunciando a tutto questo non riusciamo proprio a creare la passione. La passione nel fare, nel dire le cose, eccetera, insomma. Secondo nel creare legami. Esatto, nel creare legami, e probabilmente anche, appunto, la passione nel creare quel mondo migliore, che secondo me ognuno di noi dovrebbe provare a creare. È una tendenza a cui si dovrebbe, esatto. Con cui si dovrebbe provare a vivere. Bene, adesso non so se qua gli amici vogliono dire altro. Forse c'è un'altra cosa simpatica, certo, che secondo me dovremmo condividere con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. E cioè, ritornando magari a un tema che abbiamo affrontato all'inizio, quel tema dell'individualismo, per cui ogni colpevole manchezza nella nostra realtà è determinata dalla nostra incapacità di riuscire a raggiungerla, piuttosto che da un vuoto nella società o da una stortura nella stessa. Han la individua nella depressione, e secondo me questo è estremamente affascinante. Cioè, vede come la rivoluzione di cui prima stavamo parlando, che è una un riconoscimento collettivo del dolore collettivo, e quindi un'azione unita da tutti gli individui per riuscire a cambiarlo, a un dolore individuale del singolo che imputa a se stesso, e quindi entra in questa, in questo mondo della depressione, che ormai oggi è sì un problema riconosciuto, ma spesso e volentieri diventa una trasformazione di quello che è realmente il problema, come se fosse una giustificazione. E quindi questo elemento della psicologia positivista, che ritorna sempre a una società positivista e palliativa come quella neoliberale capitalista, secondo me è estremamente affascinante. Cioè, vedere la contrapposizione come rivoluzione, riconoscimento del dolore collettivo, e depressione, dolore individuale, imputazione individuale, secondo me è un elemento molto potente all'interno delle pagine di Anna. Sono assolutamente d'accordo, e hai fatto bene a evidenziare questo passaggio che prima avevamo solo accennato, però prima lui parla proprio di rivoluzione, quindi mi sembrava corretto farlo presente, perché era un aspetto che assolutamente mi trova molto concorde, ed è un passaggio a mio avviso molto segnante del libro, ecco, mi verrebbe da dire così. Bene, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui sempre su Radio Onda Rossa. Rientriamo qui in diretta sempre su Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, e niente, adesso andremo a presentare i libri e a ricordare i libri che abbiamo presentato questa sera. A me per fortuna è stato lasciato quello con l'autore che si pronuncia più facilmente, perché come si è capito li ho sbagliati tutti, è incredibile. Vabbè. Ci scusiamo. Pure i traduttori ho sbagliato la pronuncia. Pronunce. E allora siamo partiti per questa puntata dei saggi con Economia Queer, perché i diritti civili sono un vantaggio per tutti. È un libro di M.V. Lee Budget ed è un libro edito del Saggiatore. Poi siamo passati a Carl Rhodes con Capitalismo Woke come la moralità aziendale minaccia la democrazia, è edito da Fazzi Editore. E per finire abbiamo concluso con Byung-Chul Han, La società senza dolore, perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite, edito da Einaudi. Ebbene, dopo aver ricordato i libri, ricordiamo appunto che Radio Onda Rossa, che si vive del finanziamento di chi l'ascolta e di tutte e tutti, quindi sul sito ondarossa.info in alto cliccare su Sostieni e ci sono tutte le indicazioni per poter donare alla radio. E noi vi ringraziamo, io ringrazio chi è stato con me qua e dai sempre, e noi ritorniamo giovedì prossimo con una puntata sui fumetti, quindi vi aspettiamo giovedì. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Ciao.